sveglie t'accendi in me l'ardente passione. Sei tu miraggio verde, sei tu la fiamma che brucia nel cuore, che dà la speranza, risplende.